Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Sono tanti i lavoratori stranieri che contribuiscono quotidianamente al tessuto produttivo italiano, che aiutano anche in frangenti delicati tante famiglie. Oggi a Salva Danaio ci rivolgiamo a queste persone, ma più direttamente ai loro datori di lavoro, che si trovano spesso di fronte ad una situazione di irregolarità dal punto di vista dei documenti e dei permessi di soggiorno. Fra il 15 settembre e il 15 ottobre, quindi un mese di tempo, sarà possibile per questi datori di lavoro regolarizzare le posizioni di questi lavoratori immigrati. Secondo il decreto legislativo 109 di quest'anno e il decreto attuativo di fine agosto, la domanda di emersione potrà essere presentata senza corse, senza graduatorie, senza click day, come invece è avvenuto negli anni passati. La procedura comporta il versamento di un contributo di 1.000 euro, cui vanno aggiunti oneri fiscali, previdenziali e retributivi. Oggi di tutto questo parla una guida pratica che esce con il Sole 24 Ore. Anche qui a Salva Danaio facciamo il punto sui passi da compiere per completare queste procedure nel modo corretto, sui requisiti da rispettare e sui costi effettivi che si devono sostenere. Attenzione a tutti i datori di lavoro, perché arrivano delle sanzioni molto pesanti per chi non procede alla regolarizzazione. Peraltro si calcola che questa sanatoria potrebbe riguardare qualcosa come 380.000 immigrati. Allora, se avete un problema di questo tipo da gestire in questi giorni, chiamateci all'800 24 00 24, vi avvalete del contributo di un lavoratore straniero, la sua posizione è regolare, quali sono i vostri dubbi in merito? Noi naturalmente vi racconteremo che cosa contiene la guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, lo faremo con una delle curatrici, Rossella Cadeo, benvenuta, ciao Rossella, bentornata a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. Collega del Sole 24 Ore, poi abbiamo anche un consulente del lavoro, il dottor Alessandro Rotaporta, che spesso ci aiuta su questi temi. Buongiorno e ben ritrovato anche a lei. Buongiorno, grazie. Allora, per le domande degli ascoltatori, invece la procedura non è una sanatoria, la procedura è sempre quella. Potete chiamarci per intervenire in diretta all'800 24 00 24. Potete scriverci al 349 238 6666. Potete mandarci delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche a scrivere dei commenti e delle domande sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, oppure Rossella, possono scrivere anche al forum online delle Sole 24 Ore, perché questa è la guida che riprende un po' il percorso delle guide che si erano interrotte nel corso dell'estate, sì. No? Adesso un pool di esperti del Sole a disposizione dei lettori. Sì, ripartiamo con questa guida sanatoria immigrati. Abbiamo questo forum online che è accessibile ai navigatori lettori già da venerdì. Basta scrivere al sito, all'indirizzo www.ilsole24ore.com/sanatoria-immigrati. Si compila il modulo con il dubbio, con la domanda che si ritiene di fare all'esperto. Il giornale si raccomanda che le domande siano brevi e chiare, anche se poi per la verità ci rendiamo conto che effettivamente magari ogni datore di lavoro può avere ha un caso a sé, che può essere anche magari articolato e complesso. Sì, ma deve essere sì, se è presentata maniera sintetica chiara può essere di interesse per più lettori, per più datori di lavoro. Certo. E ricordiamo che le domande saranno le domande e le risposte più generali, più di interesse collettivo, saranno pubblicate su Sole 24 Ore in edicola domani. Le altre saranno disponibili a partire da mercoledì sul sito del Sole 24 Ore. Alessandro Rotaporta, quali sono le domande più ricorrenti che stanno facendo i lettori? Ci sono parecchi dubbi, soprattutto in merito al discorso dell'attestazione della presenza in Italia dell'extracomunitario al 31 dicembre 2011, che è uno dei requisiti richiesti dalla norma per poter accedere all'emersione, e soprattutto in merito al capitolo dei costi che devono essere sanati per la durata anche pregressa, quindi antecedente alla sanatoria del rapporto di lavoro, e che non possono riguardare un arco temporale inferiore a 6 mesi. Questi sono gli argomenti che generano più dubbi tra gli interessati. Infatti, quindi praticamente il versamento del contributo da 1.000 euro è solo uno dei tanti oneri economici che il datore di lavoro deve sostenere. Vi interrompo per un attimo, perché tutte queste novità le abbiamo riassunte come sempre in una scheda. Non ci saranno le corse degli anni passati. Niente più conto alla rovescia per i click più veloci, necessari per rientrare all'interno di tetti numerici e graduatorie. È cambiata, infatti, con un decreto del governo Monti, la procedura che consente ai datori di lavoro di regolarizzare gli immigrati senza permesso di soggiorno. Un'opportunità che interessa centinaia di migliaia di lavoratori attivi sul territorio nazionale, che portano un contributo importantissimo al tessuto produttivo e alla quotidianità di tante famiglie italiane. In passato, con i click day previsti dal decreto flussi, la procedura di regolarizzazione veniva completata online dai richiedenti più veloci. Il nuovo percorso si articola invece in due fasi. Da venerdì 7 settembre i datori possono pagare all'INPS, tramite modello F24, il contributo forfettario di 1.000 euro, necessario per partecipare alla sanatoria, specificando i dati del datore di lavoro e il numero di passaporto o un documento equipollente del lavoratore. In seguito, tra il 15 settembre e il 15 ottobre, sarà possibile la presentazione telematica dell'istanza, tramite il sito del Ministero dell'Interno. Non c'è un numero massimo né una graduatoria. I datori di lavoro hanno quindi un mese effettivo di tempo per provvedere. Bisognerà fare attenzione ad alcuni requisiti da rispettare. Il datore di lavoro dovrà attestare una soglia reddituale minima, che ad esempio nel caso di un nucleo monoreddito che assume una badante è di 20.000 euro. Bisognerà inoltre dimostrare la presenza ininterrotta dello straniero in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Le alternative sono gli SMS al 349-238-6666 o delle mail, se volete scriverci qualcosa di un po' più articolato, a salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche ad animare il dibattito su Facebook. E non voglio vedere messaggi come quello che ci ha mandato Danilo, che è un ascoltatore che ha tutto il diritto di esprimere le sue considerazioni, ma la solita solfa del "con la disoccupazione che abbiamo in Italia si regolarizzano gli immigrati, andiamo veramente a rovescio". Danilo, non vogliamo più sentirla, perché lei sa benissimo che anche questo sarà forse un luogo comune, ma è altrettanto vero che tanti lavori che impiegano i lavoratori che vengono da altri paesi sono lavori che gli italiani non vogliono farli, non li fanno, perché è così, perché il lavoro del badante o della badante è un lavoro che è occupato da un determinato tipo di popolazione straniera, perché gli italiani non vogliono farlo volentieri, per cui hanno tutto il diritto. E poi non ci dimentichiamo che ci sono anche magari tante persone che invece dall'Italia vanno all'estero e che vogliono lavorare all'estero, e che quindi hanno anche tutto il diritto di avere una condizione di lavoro all'estero regolare, per cui funziona anche al contrario il percorso, non se lo dimentichi. Detto questo, perché questi commenti mi fanno sempre un po' arrabbiare, andiamo all'ABC di questa emersione, di questa sanatoria. Allora, intanto, la prima cosa, Rossella Cadeo, dalla quale anche il primo pezzo sulla guida che esce oggi, una delle cose più importanti appunto che questo pezzo dice, che effettivamente per i datori di lavoro che non coglieranno questa opportunità ci saranno delle sanzioni molto pesanti. Di che tipo? Sì, le sanzioni sono quelle che previste dal testo unico per l'immigrazione, che però sono aggravate appunto da questo decreto legislativo 109 di cui hai parlato all'inizio della trasmissione, che ha introdotto questo periodo di sanatoria. Quindi il decreto 109 è soprattutto un decreto che ha voluto allineare l'Italia alla normativa comunitaria, prevedendo delle sanzioni più pesanti per chi non si mette in regola, per chi ha degli occupati clandestini. Ricordiamo che le vecchie sanzioni sono una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore, la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ecco, il decreto legislativo 109 innalza queste sanzioni da un terzo fino alla metà in alcune situazioni, ossia quando i lavoratori occupati sono più di 3, quando ci sono dei minori non in età lavorativa e quando i lavoratori sono tenuti in particolare stato di sfruttamento. Quindi ricordiamo, in effetti questa sanatoria non riguarda solo il lavoro domestico, no. Riguarda tutte le imprese, tutti i datori di lavoro, non ci sono limiti di attività né di origine del datore, quindi il datore può essere italiano, può essere comunitario o può essere straniero con un permesso di soggiorno di lunga durata. Facciamo per esempio riferimento, non lo so, Alessandro Rotaporta, al settore edile, che impiega anche in in questo caso molti lavoratori stranieri, molto spesso si tratta proprio di imprese fondate e gestite da imprenditori stranieri che magari chiamano a così animare questa impresa lavoratori che vengono dallo stesso paese. Sì, infatti, come diceva Teresa Cadeo, è possibile accedere alla regolarizzazione anche da parte di datori di lavoro stranieri, quindi di qualsiasi settore, perché la sanatoria non è vincolata a determinati settori produttivi, ma è aperta a tutti i settori economici, e purché siano datori di lavoro appunto stranieri, ma in regola con le norme in materia di immigrazione, quindi con il possesso di carta di per soggiornanti di lungo periodo o in attesa di rinnovo, di rilascio della stessa, quindi devono comunque trovarsi in regola con queste condizioni. Allora, facciamo un esempio pratico, così lo facciamo capire bene anche ai nostri ascoltatori. Ammettendo di essere un datore di lavoro che vuole appunto regolarizzare una persona che impiega presso la propria attività, prima questione da risolvere: la dimostrazione del fatto che questo lavoratore era già impiegato al 31 dicembre dello scorso anno. Come si fa a dimostrarlo, dottor Rotaporta? Come deve fare il datore di lavoro? Beh, no, il discorso del 31 dicembre è riferito alla presenza in Italia. Quindi non doveva già essere impiegato. No, deve essere presente in Italia al 31 dicembre, quindi trovarsi sul territorio nazionale al 31 dicembre. Questa dimostrazione, la norma dice che dovrà essere prodotta tramite documentazione proveniente da organismi pubblici, quindi in sostanza poi speriamo che ci siano magari dei chiarimenti in merito a questo punto, che è un po' lascia qualche perplessità. Si pensa ad esempio, non so, a un biglietto di trasporto, quindi un documento di trasporto, un titolo di viaggio in sostanza, esatto, all'accesso ad esempio a un ospedale dove sono state prestate delle cure, insomma un documento rilasciato appunto da organismi pubblici, così recita la norma, che attesti la presenza al 31 dicembre 2011. Quindi questo per quanto riguarda la presenza. Qua può andare bene qualunque tipo di documento, voglio dire, non uno scontrino rilasciato dal supermercato, intendo, però ecco che sia di un ente pubblico. Sì, esatto, questo è quanto, almeno stando alle prime precisazioni che ha fornito anche la circolare congiunta interno lavoro, quindi questo è quanto. Poi il secondo requisito che viene subito successivamente è che il rapporto di lavoro irregolare sia iniziato almeno dal 9 maggio 2012, quindi è un doppio requisito, uno relativo alla presenza in Italia e uno relativo all'inizio del rapporto di lavoro almeno dal 9 maggio 2012. Quindi se il rapporto di lavoro è iniziato dopo, non si può procedere a questa sanatoria? No, assolutamente. Benissimo, quindi dimostrare appunto che si presti il proprio lavoro presso questo datore di lavoro appunto entro quella data, entro il 9 maggio, no? Almeno dal 9 maggio. Allora, tra l'altro, Rossella, parlando prima della questione delle sanzioni a cui va potenzialmente incontro un datore di lavoro che non fruisce di questa sanatoria per regolarizzare i propri lavoratori immigrati, c'è però una sorta di sospensiva. Voi parlate sul vostro articolo scritto insieme a Valentina Melis che il decreto concede un periodo ponte per mettersi in regola, durante il quale le nuove sanzioni sono come congelate? Congelate, sì, è proprio il senso di questo decreto legislativo, questo periodo ponte durante il quale le sanzioni nei confronti del datore che impiega personale clandestino sono congelate, di modo che il datore possa mettersi in regola, approfittare di questa finestra per verificare innanzitutto se ha tutti i documenti, se ha i requisiti, la presenza di questi requisiti, che sono anche dei requisiti di reddito, ricordiamo, perché il datore di lavoro deve garantire un reddito imponibile di almeno 30.000 euro nel caso di tutte le attività, salvo nel lavoro domestico. Per il lavoro domestico la soglia reddituale scende a 27.000 o a 20.000 euro e non è prevista nessuna soglia. Invece ricordiamo, se il percettore del reddito è un non autosufficiente e appunto vuole assumere una badante, Il requisito reddituale dunque non si applica al datore che è affetto da patologie o da handicap gravi. Alessandro Rotaporta, volevo ritornare con lei per un attimo alla questione invece del contributo che va versato per attivare la procedura appunto di emersione, di sanatoria, chiamiamola come vogliamo. Questi famosi 1.000 euro, poi c'è tutto il resto di contributi fiscali, previdenziali, di cui parleremo più avanti, ma questo contributo da 1.000 euro a che cosa serve? È proprio per, come dire, aprire l'istruttoria, la domanda, a che cosa serve appunto questa cifra da versare? Sì, diciamo che infatti qualcuno ha chiesto anche delle citazioni in merito, i lettori che si stanno collegando al forum hanno chiesto appunto spiegazioni. È semplicemente una tassa d'ingresso che andrà a finire nelle casse dell'INPS, ma non è un anticipo di quello che riguarderanno i costi che andranno regolarizzati. È una tassa d'ingresso, una tantum che è requisito propedeutico per presentare l'istanza, proprio perché in un campo dell'istanza sarà previsto l'inserimento della data del versamento, quindi deve essere versata prima della presentazione dell'istanza. Senza il versamento non si può presentare la domanda. E qui ci sono quegli aspetti che possono creare qualche disappunto in qualche datore di lavoro, perché in primo luogo questa cifra non è detraibile fiscalmente, No. Poi se la procedura non va a buon fine non te la restituisce nessuno. Esatto, sì, è proprio così. In caso di rigetto o di ricevibilità dell'istanza, o qualora il datore di lavoro si accorga di magari di non avere tutti i requisiti e non presenti l'istanza, i 1.000 euro non verranno restituiti, sono a perdere. Ecco, e quindi poi magari dovremo fare anche il punto allora di tutto ciò che può far vanificare la domanda di sanatoria, che cosa la può far saltare, se e quando può anche non concludersi positivamente, anche perché effettivamente, da quello che capisco, siccome non ci sono tetti numerici per l'ammissione e l'accettazione delle domande, bisogna proprio veramente che si sia in una situazione particolarmente complicata per farla saltare Rotaporta la regolarizzazione. Intanto una volta presentata l'istanza c'è una verifica che viene effettuata su un duplice aspetto: da parte delle questure in merito alla posizione del lavoratore e del datore di lavoro, se individualmente, quindi come soggetti, rientrano nelle casistiche che avevamo detto prima, quindi ci sono tutte le condizioni previste per poter accedere alla sanatoria, e poi c'è una verifica già preventiva da parte delle direzioni territoriali del lavoro che verificano la capacità reddituale del datore, quindi queste sono già condizioni che vengono verificate. Poi all'atto della convocazione presso lo sportello unico, quindi nel momento in cui si dovrà stipulare il contratto di soggiorno, lì c'è poi tutta una verifica sul capitolo dei costi e in più, diciamo, c'è un elemento di novità in questa sanatoria rispetto ai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditori, che è la richiesta del DURC, quindi devono essere datori di lavoro che siano in regola con i versamenti, e a quanto pare non solo, siccome il DURC è un'attestazione che riguarda la regolarità dell'intero complesso aziendale, non solo riferiti quindi a quel determinato datore di lavoratore che viene fatto emergere, ma riferiti all'intera azienda, quindi un elemento di novità in più che potrebbe rischiare di far saltare tutto. Frustace Lionello, portiere da 7 generazioni. Per queste occasioni ha il repertorio 3 frasi cult che ripete nello stesso ordine da 20 anni. Questi vengono in Italia e se pensano di fare i padroni. E questa era la prima. La seconda è più ricercata. Ma che se credono che sono al paese loro, che possono fare come gli pare? E con la terza ci vincerebbe le elezioni. Io li caccerei a calci nel culo. E per accontentare tutti gli ascoltatori che navigano nel pregiudizio a cui piace, abbiamo scelto naturalmente un film piuttosto divertente. Questa era una magistrale interpretazione di Rocco Papaleo nel film Nessuno mi può giudicare, nel 2011, e questo è un po' il giudizio che tante volte sui lavoratori immigrati imperversa, sbagliato, riteniamo noi, perché invece ci aiutano e fanno anche andare piuttosto bene certi settori che altrimenti dai lavoratori italiani non sarebbero impiegati. Detto questo, perché abbiamo preso questo pezzo di film e perché abbiamo fatto tutta questa premessa? Perché oggi parliamo della sanatoria dei lavoratori immigrati, che appunto partirà il 15 settembre. Oggi Il Sole 24 Ore pubblica una guida con tutte le istruzioni per i datori di lavoro per regolarizzare queste persone che impiegano e che magari appunto aspettavano proprio questo provvedimento pubblico per poter emergere, per emergere naturalmente dal nero, a patto che naturalmente fossero in Italia regolarmente dal dicembre dello scorso anno. Spiegavamo prima con i nostri esperti che per la dimostrazione di questa presenza lo scorso dicembre è necessario avere un qualunque tipo di documento pubblico che attesti questa presenza. Rossella Cadeo, Damiano da Roma chiede: anche un certificato di pronto soccorso può andare bene? Sì, potrebbe andare bene. Nella teoria sì. Nella teoria sì, perché proviene da un ospedale, un soccorso pubblico, fa parte, rientra nella categoria degli organismi pubblici. Resta però da vedere, sarebbe interessante avere un elenco di quelli che possono essere, o almeno una casistica di quelli che possono essere i documenti sufficienti ad attestare la presenza in Italia dal 31 dicembre del 2011, perché poi c'è il rischio che altrimenti ciascuna questura vada si comporti, per conto proprio, attivi una prassi differente sul territorio. Certo, chi deve diramare magari questo elenco? Il Ministero dell'Interno? Lavoro interno. Ok. Allora, un'altra domanda, Alessandro Rotaporta, che è il nostro consulente di questa mattina. Tina ci chiede: se una collaboratrice domestica, condizione diffusissima in Italia, lavora per più famiglie, il contributo da 1000 euro come si versano? Chi deve versarli? Cosa succede? Che magari un solo datore di lavoro deve incaricarsi di questo versamento, che poi nei fatti sappiamo che molto spesso è il lavoratore che versa al posto del datore di lavoro, ma questo facciamo finta di non averlo detto, però questo capita anche. Rotaporta. Sì, sul contributo le previsioni legislative non consentono di frazionarlo, quindi se ci sono più datori di lavoro che diciamo pro quota si avvalgono della collaborazione di un medesimo lavoratore extracomunitario da regolarizzare, quindi con tutti i presupposti per accedere alla sanatoria, dovranno ciascuno di essi versare il contributo di 1000 euro, perché non è riferito al singolo, non è riferito al lavoratore, ma è riferito a ciascun datore di lavoro. Allora andiamo alle domande in diretta degli ascoltatori, cominciando con Giuseppe da Trento, che è il primo ascoltatore che si è messo in lizza questa mattina. Giuseppe, buongiorno, benvenuto e buona giornata. Buongiorno, la domanda è questa: per una diciamo badante che però non era diciamo presente sul territorio, io avevo fatto la domanda un anno fa nel gennaio 2011 e per poter entrare nelle liste con il click day famoso. Sì. Lei era entrata nelle liste, poi per problemi contingenti non era potuta partire nel successivo semestre e quindi non avevo dato seguito alla cosa. Quindi lei era stata regolare, non è venuta in Italia. Questa persona può adesso, documentando che era stata accolta la sua richiesta, fatta con il click day, eccetera, essere regolarizzata, venire in Italia regolarizzata? Giuseppe, la ringrazio. Allora, non so se il provvedimento ultimo contempli anche questa opzione Rotaporta, ma mi pare di capire di no. No, perché comunque da quello che sembra aver detto l'ascoltatore, non c'è il requisito fondamentale della presenza il 31 dicembre 2011. Se, come si è capito, il lavoratore, quindi la persona, è all'estero, quindi non era presente in Italia almeno a quella data, non si potrà accedere all'emersione. Quindi niente, Giuseppe purtroppo deve rinunciare quantomeno a ricongiungersi con questa persona con la quale aveva già lavorato. Francesco dalla provincia di Salerno, buona giornata anche a lei. Buona giornata, buongiorno. Ci dica. Il problema più o meno, a me è successo un paio di settimane fa, che ho conosciuto questo capoverdiano e potrebbe fare al mio caso, solo che questo signore è venuto in Italia il 26 giugno tramite via Olanda. Quindi, visto che questa regolarizzazione parte da quelli che fino al 31 dicembre 2011 non si può irregolarizzare. Mi pare proprio di no, Francesco. La legge parla molto chiaro da questo punto di vista. Alessandro Rotaporta, ribadiamo allora i requisiti magari fondamentali per regolarizzare gli immigrati con questa opzione. Poi non è detto che prossimamente se ne apra un'altra, e quindi per altre persone che sono arrivate successivamente nel nostro paese ci sia questa opportunità appunto di emergere, però a queste condizioni, quelle indicate da Francesco, non è possibile. No, neanche in questo caso, perché appunto le condizioni, le riepiloghiamo un secondo, sono la presenza del cittadino extracomunitario in Italia almeno alla data del 31 dicembre 2011 e la seconda condizione, sempre per poter accedere, è che il rapporto di lavoro con questa persona sia iniziato almeno dal 9 maggio 2012, quindi se non ricorrono entrambe queste due condizioni non è possibile accedere alla sanatoria. Allora, un altro aspetto molto importante, lo anticipavamo prima e adesso forse è ora di riprenderlo e ad approfondirlo, è tutta la complessa tematica degli oneri fiscali, previdenziali e retributivi che il datore di lavoro appunto deve versare per poter regolarizzare queste persone straniere che lavorano per lui. Quindi non abbiamo solamente il contributo da 1000 euro, ma abbiamo tutta un'altra serie di oneri che comporterà per i datori di lavoro appunto l'esborso di cifre molto considerevoli. Secondo lei questo che tipo di conseguenze determinerà Rota Porta? Poi magari facciamo anche una stima media di quanto ogni lavoratore dovrà versare per ogni datore di lavoro dovrà versare per ogni lavoratore che vuole regolarizzare. Beh, gli effetti di questa disposizione, che effettivamente rispetto a passate edizioni del passato chiede proprio una regolarizzazione piena del rapporto di lavoro, comporterà probabilmente che i datori di lavoro dovranno, nonostante le sanzioni a cui possono incorrere, che sono state citate prima, però effettivamente l'esborso sarà notevole, quindi questo potrebbe restringere la platea dei regolarizzati. Se ne ha 10 ne regolarizza 5 e gli altri Perché effettivamente il conto può essere salato, perché appunto, come abbiamo accennato, all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, quindi all'atto della convocazione presso lo sportello unico, il datore di lavoro sarà tenuto ad attestare che ha regolarmente versato la retribuzione al lavoratore tramite una dichiarazione congiunta con il lavoratore stesso, e le retribuzioni non devono essere inferiori a quanto disciplinato da quanto dettato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovviamente applicati alle specifiche casistiche. Poi dovrà anche provvedere e dimostrare di aver regolarizzato la contribuzione a seconda del settore di appartenenza con le specifiche appunto modalità del settore. Ad esempio, nel caso dei lavoratori domestici dovrà esibire proprio il pagamento che avviene tramite i bollettini MAV, e qui speriamo in qualche chiarimento in più da parte dell'INPS. E invece per quello che concerne gli aspetti fiscali dovrà sempre il datore di lavoro attestare di aver anche versato le ritenute inerenti al rapporto di lavoro. Tutti questi costi devono essere dimostrati con un periodo minimo di 6 mesi, quindi quindi dovranno coprire tutto il rapporto di lavoro, ma in caso di un rapporto di lavoro che non raggiunge 6 mesi, comunque sia dovranno essere sostenuti questi costi per almeno 6 mesi. Allora, la presentazione della dichiarazione di emersione avviene esclusivamente tramite modalità informatica, poi vi spieghiamo anche i passi di questa procedura e anche quello che poi va fatto successivamente. Intanto però riprendiamo un altro ascoltatore all'800240024, in questo caso è Lorenzo da Bergamo. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, i miei genitori hanno una badante che da un punto di vista sostanziale avrebbe requisiti. Sì. A dicembre era già in Italia e ha iniziato a lavorare a marzo dei miei. Solo che non ha, da un punto di vista formale, un documento che dimostri che lei era davvero qua. Essendo come clandestina, ovviamente non si esponeva. Non Infatti ha preso c'è molto. Anche questo conflitto di fondo, no? Se tu ti trovavi qua in una condizione di clandestinità, poter avere l'opportunità di farti rilasciare un documento pubblico da qualcuno in quel momento era anche rischioso e quindi difficile, no, Lorenzo? Esattamente, uno si nascondeva, insomma, in qualche modo. So che alcuni connazionali hanno accordi con avvocati e medici che fanno dei certificati medici retroattivi falsi. Certo. Volevo capire se, al di là del fatto che la cosa ovviamente non sia corretta, ma volevo capire se c'è modo di andare a verificare se quei documenti poi sono veri o no, perché so che nel momento in cui io pago i 1000 euro di sanzione, metto in moto tutta la macchina, se poi i documenti non vengono accettati... Allora, lei intanto sicuramente i suoi 1000 euro li perde, è capire anche se poi si perdono eventualmente tutti gli altri, ma magari, come dire, c'è anche l'impedimento a versarli qualora non ci sia questa dimostrazione della sussistenza del requisito fondamentale, la presenza in dicembre. Rossella, ti stiamo offrendo un sacco di materiale per le prossime pagine, infatti. Esatto. Sì, che cosa ne pensi intanto di questo caso? Poi andiamo a Rota Porta. Di questo caso, senz'altro, sì, è un caso emblematico. Questo rende rende ancora più evidente quanto sia necessaria una casistica sui documenti che possono essere accettati per verificare, per certificare la presenza dello straniero dal 31 dicembre dello scorso anno. Anche perché i certificati sì, di pronto soccorso potevano essere validi, però c'era appunto la tendenza a non farsi ricoverare. È vero, però è anche vero che tutti questi no, perché mi ha stupito anche la considerazione fatta dall'ascoltatore che dice di essere a conoscenza di magari, che ne so, medici conniventi piuttosto che altri funzionari che rilasciano oggi della documentazione con quella data, ma adesso che viene rilasciato quasi tutto in via informatica, rota porta, cioè significa veramente fare delle forzature che non possono poi non essere dimostrate nella loro falsità. Che ne dice? Sì, anche perché comunque ricordiamo che c'è poi una verifica, quindi la circolare che è uscita lo scorso 7 settembre, la circolare congiunta interno lavoro, che ha riepilogato un po' quali sono i vari passaggi di questa procedura di sanatoria, tra i punti di verifica elenca appunto questo del controllo della documentazione attestante la presenza del lavoratore, quindi verrà poi verificato tra i punti della circolare c'è anche quali sono le conseguenze poi per aver fornito delle false dichiarazioni, certo. Quindi si rischia di incorrere poi in altri tipi di problemi. Che strada suggeriamo di percorrere a Lorenzo che, come diceva lui giustamente, ha quasi tutti i requisiti per poter assumere regolarmente, regolarizzare questa persona, gli manca però quello fondamentale, che cosa può andare a così ricercare nella documentazione di questa persona che possa aiutarlo? Però se non è nulla. È abbastanza difficile rispondere, proprio perché, come diceva la dottoressa Caseo, non c'è un'elencazione, non sono state previste delle fattispecie specifiche, e l'addizione della norma è abbastanza generica, quindi si parla di documentazione proveniente da organismi pubblici, diventa un po' complesso dare. Si auspica che, visto che la finestra per poter inviare le istanze è aperta fino al 15 ottobre, che magari con qualche chiarimento in più, visto anche il capitolo costi, in modo da dare delle notizie un po' più rassicuranti. Sarebbe esatto, interessante capire se magari anche in questo elenco potranno ricadere, transazioni commerciali fatte con una carta di credito, adesso non so, dico una cosa magari superficiale. Ma si parla di organismi pubblici, potrebbe essere, non so, l'iscrizione, l'attestato di iscrizione dei figli a scuola, l'attestato della partecipazione. Ma se lei era irregolare qua a dicembre, i figli non credo che fossero in una posizione più trasparente. C'è un ascoltatore che ci scrive: più che sanatoria bisognerebbe chiamarla condono, ma è la stessa cosa, perché comunque è un provvedimento che sana delle situazioni non completamente regolari, anzi tutt'altro. Possiamo chiamarlo in vari modi, ravvedimento, ecco, chiamiamolo come ci pare, emersione degli immigrati, chiamiamola come vogliamo. In ogni caso questa è la procedura che potranno utilizzare i datori di lavoro che impiegano persone straniere per un mese, hanno il tempo appunto dal 15 settembre al 15 ottobre per fare istanza di regolarizzazione che si fa tramite internet, sì. Rossella Cadeo. Ecco, ricordiamo che non c'è click day, quindi non bisogna correre alzarsi alle 3 del mattino, prepararsi con il mouse e computer, però avverrà comunque online, quindi bisogna avere senz'altro una connessione internet, un indirizzo di posta email, e fondamentale è collegarsi al sito www.interno.gov.it. Su questo sito si troverà il modulo da compilare per attivare la procedura, si troverà anche un manuale di utilizzo del sistema e dovrebbe esserci a disposizione dal prossimo sabato, dal giorno appunto in cui si aprirà la possibilità di accedere a questa sanatoria, un help desk raggiungibile telefonicamente per avere tutte le informazioni del caso. Quindi nessun click day, però computer, connessione e documenti a fianco per poter procedere alla compilazione. Adesso magari non possiamo ancora saperlo, ma Alessandro Rotaporta, le prime domande che questa procedura farà alla persona che si collega, quali saranno? In primo luogo chiaramente le condizioni anagrafiche generali, poi per esempio versamento da 1000 euro deve già essere dimostrato, bisogna presentarsi anche già con questo certificato prima di avviare la procedura telematica? Sì, la data in merito al versamento di 1.000 euro, la data del versamento dovrà essere indicata nel corpo dell'istanza, quindi molto probabilmente ci sarà un campo dove andrà inserita la data del versamento e poi appunto oltre ai dati personali del datore di lavoro e del lavoratore troveranno spazio ad esempio i dati riferiti al rapporto di lavoro, quindi le mansioni, il contratto collettivo nazionale che riguarda quello specifico rapporto di lavoro, la retribuzione che è spettante al lavoratore e quindi anche il rispetto dei requisiti di capacità economica che sono stati citati in precedenza in capo al datore di lavoro per poter procedere alla regolarizzazione. Ecco, poi la regolarizzazione della posizione retributiva e contributiva va fatta in un secondo momento, rotaporta, e entro quanto tempo ha il datore di lavoro per espletare anche tutto il resto? Ma allora, per quanto riguarda la retribuzione e il versamento dei contributi, come abbiamo spiegato prima, non sono state previste delle tempistiche intermedie, però andranno comunque dimostrati, quindi andranno prodotti i versamenti o gli altri adempimenti che la norma richiede, ad esempio per le aziende dovranno produrre la denuncia telematica all'INPS della regolarizzazione dei lavoratori e qui non ci sono tempistiche se non appunto di avere tutto quanto pronto per quando si verrà convocati dallo sportello unico. In merito invece al discorso fiscale, qui c'è una data che è stata indicata dal decreto ministeriale attuativo che è il 16 novembre 2012, quindi le ritenute riferite al rapporto di lavoro che si va a regolarizzare devono essere versate entro il 16 novembre 2012 e anche queste poi andranno comunque attestate al lato della convocazione. C'è un ascoltatore che adesso non ce la facciamo a sentirlo perché ne ho già due in coda e poi stiamo già andando verso la conclusione. No, vedo che invece Margherita me lo ha pescato al volo, Angelo dalla provincia di Monza e Brianza, perché la questione dell'attestato di frequenza di una scuola per stranieri potrebbe essere una documentazione valida per dimostrare che si era già in Italia a dicembre scorso. Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto. Ascolti, precedentemente, negli altri anni precedenti, io siccome faccio parte di una parrocchia che fanno delle lezioni per gli stranieri di italiano, altre volte noi abbiamo fatto questi attestati, non so se saranno accettati, ma è possibile che qualcuno di queste persone abbia bisogno di questo attestato. Certo, Angelo, è il discorso che facevamo prima, attendiamo una lista dettagliata della documentazione che ha questa validità e chissà che non ci possa ricadere anche l'attestato di frequenza di un corso di italiano per persone straniere, rotaporta. Lei così, a naso, cosa a dice? A naso, a grandi linee, diciamo che una documentazione del genere potrebbe essere sufficiente. Infatti. Vedremo. Angelo, grazie comunque per il suo suggerimento. Chissà che ai ministeri interessati non colgano questo spunto. Sergio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Niente, una precisazione soltanto perché vi stavate preoccupando dei datori di lavoro e di quanti soldi dovranno sborsare. Allora volevo sottolineare il fatto che la maggior parte di questi stranieri è disposta a pagarsi tutto. Lo abbiamo anche detto, Sergio, sì, è capitato spesso in passato, sì, infatti. Allora ho perso il pezzo, siccome dicevo io, la coda di gente che viene a chiedermi, siccome ne ho regolarizzato uno con l'ultima sanatoria, ho la coda di suoi amici che sono lì. Si è sparsa la voce che lei è molto disponibile, insomma, e quindi che non c'è stato il passo a parole. Perché lui era da me, io lo conoscevo benissimo e quindi ho fatto tutto quello che dovevo fare. Però dicevo appunto che sono tutti disposti a sborsare tantissimi soldi per farsi mettere in regola. Grazie Sergio, grazie, ce lo ricorderemo, ma insomma credo che tutti gli organi anche competenti, preposti al controllo di tutto ciò, lo sappiano benissimo. Che cosa dobbiamo ancora? Abbiamo 2 minuti di tempo prima di salutarci, Rossella, che cosa dobbiamo raccontare ancora che ci siamo dimenticati di importante? Solo una cosa, il requisito del tempo, del tempo di lavoro, per tutti i lavoratori è richiesto richiesto l'occupazione a tempo pieno, salvo per le colf per le quali sono sufficienti 20 ore alla settimana. Tra l'altro la regolarizzazione della colf è quella che implica il minore costo, c'è quindi anche il rischio che molti profili vengano inquadrati. Il mondo delle colf sarà miracolosamente popolato e moltiplicato nelle prossime settimane. Rotta Porta, da parte sua un ultimo... Ah no, abbiamo recuperato Brigida da Verona, vediamo se ce la fa in 30 secondi a fare la sua domanda. Brigida, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sono in regola, sono brasiliana e lavoro, lavoro. Vorrei sapere se ho possibilità di dare un documento a un paesano mio, brasiliano, che è in nero qua in Italia. Mi scusi, se ha l'opportunità di dare un documento? A un brasiliano? Io sono in regola, ho permesso. Sì, vuol far... Vorrei sapere se ho possibilità di io dare un documento a un brasiliano. A un brasiliano per far regolarizzare la sua posizione. Rotta Porta, perché è anche facile che si possa scatenare questa sindrome della solidarietà fra persone appartenenti alla stessa comunità straniera. Sì, è possibile, perché la signora è in regola con le leggi sull'immigrazione, quindi essendo in regola può accedere alla sanatoria. Ovviamente, come si diceva prima, dovrà avere quelle capacità economiche, quindi quel reddito minimo richiesto per poter fare la domanda. Allora, noi abbiamo terminato la nostra trasmissione. Il sito del Ministero dell'Interno è www.interno.gov.it per tutti coloro che ce l'hanno chiesto. Salva Danaio sta terminando. Grazie a Rossella Cadeo e ad Alessandro Rotaporta per averci aiutato oggi. C'è la guida del Sole 24 Ore per tutti gli altri dettagli che non abbiamo avuto il tempo di dare a tutti. Buona giornata. A domani.